Questo spiega forse la superficialità delle indagini dei carabinieri, che omettono in quel momento di raccogliere informazioni che sarebbero state capitali poi per un miglior svolgimento del processo. 2 novembre 1975, ore 1:30 del mattino. I carabinieri fermano un Alfa Romeo GT che procede a gran velocità e contromano sul lungomare di Ostia. Alla guida c'è Giuseppe Pelosi, per tutti Pino La Rana. Poche ore più tardi, in uno spiazzo dell'idroscalo di Ostia, alcuni abitanti della zona trovano il corpo senza vita di Pierpaolo Pasolini. Cosa è successo? Io ho fatto, dico, non è un sacco di immondizie, è un morto, perché per prima l'ho visto io. Sì, com'era? Era una cosa spettacolare, riconoscibile, la bocca sotto col cranio di fuori. Sul luogo del delitto, curiosi, giornalisti, amici di Pasolini. Un caos indescrivibile, tracce che si confondono, indizi che si perdono. Rimangono solo il cadavere di Pasolini e quella Alfa GT. La famiglia di Pasolini incarica l'avvocato Nino Marazzita di seguire il caso. Il sostituto procuratore chiese a me, dopo due giorni dalla morte di Pierpaolo, dov'era l'autovettura, dov'era la macchina. Arrivò una lettera a Paese Sera, però indirizzata a me, in cui si diceva Pelosi e Pasolini sono stati seguiti da un'autovettura, 1100, non sono sicuro, ma c'era indicato un tipo di autovettura Fiat di colore blu, targata Catania, e mi si davano tre numeri di targa. Io feci una richiesta, si può accertare facilmente attraverso il pubblico registro automobilistico. Beh, tutto questo fu assolutamente inascoltato. Dunque, indagini fatte male, piste trascurate, indizi ignorati, ma del resto l'arresto di Pelosi sembrava spiegare tutto. Il ragazzo di vita che ha perso la testa ha massacrato Pasolini durante un incontro omosessuale. È la versione più ovvia, la più semplice, ma è anche forse la più comoda, quella che mette tranquilli tutti perché risolve lo scandalo della morte violenta di un intellettuale molto scomodo. Ma scomodo perché? Ne parliamo qui a Mix24 dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24, stiamo ricostruendo la storia di Pierpaolo Pasolini, ucciso il 2 novembre del 75 in un delitto efferato e brutale, su cui sembra impossibile ancora oggi mettere la parola fine. Ma chi era Pierpaolo Pasolini? Ascoltiamo il ricordo della persona più importante della sua vita, la madre Susanna Colussi. È sempre stato molto affettuoso, ecco. Quando dicevo, per esempio, sto poco bene, mi duole la testa, sì, lui si inginocchiava davanti a un'immagine della Madonna e la pregava, piangeva, finché non gli dicevo che stavo bene proprio. Just a perfect day. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Susanna Colussi sarà con lui tutta la vita. Da Bologna, dove Pierpaolo è nato il 5 marzo del 1922, a Casarsa, in Friuli, il paese di sua madre. E proprio a Casarsa, Pierpaolo conosce il primo dolore della sua vita, la morte di suo fratello Guido, ucciso dai partigiani a Porzus nel febbraio del 1945. E quando Pasolini, in Il Vangelo secondo Matteo, deve dare un volto al dolore della Madonna, disperata per la morte del figlio sulla croce, sceglie proprio il volto di sua madre, Susanna Colussi. Sono riuscita a entrare nel personaggio pensando al dolore che ho provato quando è morto quell'altro mio figlio. Ma pensando a Guido? Ho pensato a Guido, sì, che avevo paura proprio di impazzire. Allora dico, anche la Madonna forse avrà sofferto tanto a vedere il figlio in croce. Ma in realtà mio fratello rappresenta, continua a rappresentare, non soltanto loro, rappresenta quello che io avrei voluto essere. Tutto questo ancora resiste? Sì.

Rieccoci a Radio 24 per parlare della morte di Pierpaolo Pasolini, per capirne la vita, le opere, ma anche per conoscere il suo rapporto con le borgate romane. A cominciare dal Monteverde, il quartiere di Roma dove Pasolini arriva agli inizi degli anni 50. Sentiamo uno dei ragazzi di vita descritti da Pasolini nei suoi romanzi. Pierpaolo Pasolini venne qui da noi nel 1954 ad abitare a via Fontagliana 86. Frequentava assiduamente il quartiere in quanto qui c'era il campetto di pallone e in quanto lui scriveva ragazzi di vita. Praticamente era uno di noi, non c'erano problemi di nessun genere, insomma. C'aveva uno sguardo, una fisonomia, sembrava una faccia da ladro, però poi quando parlava ti incantava, delicato, e poi un'altra categoria, insomma. Così Pasolini, un provinciale colto e curioso, entra in quel mondo. E con i ragazzi delle borgate romane vive un'esperienza che subito si trasforma in letteratura. Per noi è un nostro caro amico e lui vicino a noi si sente contento e quasi protetto. Perché noi... Protetto? Sì, perché no, noi tutti gli vogliamo bene, perché questo è vero, perché non lo devi dire? Non di protetto. E lui lavorando ci fa lavorare a noi e noi guadagniamo dei soldi e noi siamo contenti di stargli vicino. Così Silvio Parrello, amico di Pasolini. Era una persona molto generosa Pasolini, tant'è vero che... E quando lui cominciò a lavorare al cinema, che collaborò su E notti di gabbia di Fellini, Fellini gli regalò una 600, no? Lui quando veniva qui lasciava i sportelli aperti con le monete spicce dentro, perché sapeva dopo noi aprivamo e se beccavo insomma gli spicci che c'era, ma lui lo sapeva, era consapevole, lo faceva apposta, insomma. A consacrare definitivamente Pasolini, scrittore, ai ragazzi di vita del 55, un romanzo nuovo, straordinario per invenzioni linguistiche e per potenza descrittiva, ma naturalmente come sempre anche un romanzo che fa scandalo, e lo scandalo si ripete pochi anni dopo quando Pasolini diventa anche regista. Adesso le sue borgate diventano cinema, ancora il ricordo di Furio Colombo. Era un uomo molto forte ed era un uomo che disponeva della sua parte di forza per reagire e contrastare, per esempio il cinema. Era un personaggio di statura internazionale, certamente nell'opinione pubblica europea, francese, tedesca, ma anche in quella americana. Parlo della cultura, naturalmente parlo di New York, ovviamente delle grandi università, ma c'era Pasolini il poeta e c'era Pasolini l'uomo di cinema. Con Accattone nel 1961 Pasolini diventa una star, un regista acclamato e controverso. Un regista che riscrive la grammatica dello schermo e che fa discutere, che ha successo, ma che fa sempre e comunque scandalo. E nella sfida perenne alla morale dei tempi, Pasolini è sempre accompagnato dai suoi amici, i ragazzi di vita delle borgate, che diventano attori, autori, registi, comparse di un'avventura artistica e cinematografica che arriva lassù, fino al cielo. Ascoltiamo Pasolini in un'intervista di Enzo Biagi del 1971. Evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non naturale, non laico. Vedo sempre le cose come un po' miracolose. Ogni oggetto per me è miracoloso, cioè ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere. Il Vangelo la consola? Mi consola? Sì. Ma non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione, ma le consolazioni proprio sono sempre retoriche, no? Insincere, irreali. Ma mi dice il Vangelo di Cristo? Sì. No, allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione. Pasolini e il cinema, Pasolini e i suoi amici. Pasolini e quei ragazzi diventati adulti. Pasolini profeta, testimone e protagonista allo stesso tempo. Pasolini che con il passare degli anni diventa sempre più inquieto, anche nei momenti di apparente serenità, come emerge in questo ricordo di Bernardo Bertolucci. Mi era venuto a trovare due volte mentre girava Salò. Loro giravano a Mantova, noi giravamo a Parma. E poi le due troupe si misero d'accordo per un incontro di calcio che avvenne il 16 marzo, che è anche il mio compleanno. cominciò la partita, naturalmente Pierpaolo giocava con la squadra di Salò, perché lui ha sempre amato molto giocare a pallone e quelle che lui chiamava le partitelle. Cominciò in modo molto divertente, con grande entusiasmo. Poi piano piano qualcosa andava inquinando la gioia e l'allegria della partita. Che cos'era? Che poco per volta i giocatori di Novecento, i giocatori di Salò, cioè i macchinisti, gli elettricisti, insomma quelli che erano sui film, piano piano si tiravano indietro ed entravano delle facce nuove che erano dei giocatori veri, non so, delle riserve del Parma, o addirittura c'era qualcuno della Roma, e diventò una partita vera. A quel punto ho visto che Pierpaolo cominciava a essere molto irritato, perché queste facce nuove, per esempio, suoi nuovi compagni di squadra non gli passavano mai la palla. E un quarto d'ora prima della fine lui disse basta e venne lì dove stavo io di fianco e mi disse: sono tutti dei narcisetti. Pasolini vede la città, la sua città, trasformarsi, stravolgersi, farsi cupa e rabbiosa. Il boom economico ha travolto i quartieri e le persone. È come un'innocenza perduta. Così Dacia Maraini. Rincorreva questa innocenza che non trovava da nessuna parte, che non trovava più in questi ragazzi di vita, che erano diventati violenti e poi sono diventati anche i suoi carnefici, no? Sono direttamente interessato a quelli che sono i cambiamenti storici. Cioè io tutte le sere, tutte le notti, la mia vita consiste nell'avere rapporti diretti, immediati con tutta questa gente che io vedo che sta cambiando. E quindi questo fa parte della mia vita intima, della mia vita privata, della mia vita quotidiana, è un problema mio. Nelle parole di Pasolini, lo avete sentito, quasi si percepisce lo sgomento, il disagio di fronte a un'Italia che sta cambiando e sta cambiando troppo in fretta. Di quel mutamento Pasolini è al tempo stesso testimone e profeta, ma è anche un polemista capace di prese di posizione sconcertanti e imprevedibili, come quella contro i ragazzi del movimento studentesco che nel marzo del 68 a Roma sono protagonisti degli scontri con la polizia a Valle Giulia. Vi odio, come odio i vostri papà. Buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo. Siete pavidi, incerti, disperati, ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati. Prerogative piccolo borghesi. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte con i poliziotti, io simpatizzavo con i poliziotti, perché i poliziotti sono i figli dei poveri. Un atto d'accusa, insomma, contro gli studenti borghesi del movimento, in difesa invece dei poliziotti proletari. Anche questa pagina di Pasolini nel 68 provocò un vero e proprio terremoto. Ma in quegli anni c'è anche un altro bersaglio preferito dallo scrittore e dal regista, la televisione. Il nuovo fenomeno di massa che sta cambiando la vita e la cultura degli italiani. Non è affatto vero che non credo nel progresso. Io credo nel progresso, non credo nello sviluppo. E nella fattispecie in questo sviluppo. Ed è questo sviluppo, semmai, che dà alla mia natura gaia una svolta tremendamente triste, quasi tragica. Intravedevo un'epoca di generale accettazione e sottomissione, nella quale in fondo ti va bene tutto ciò che sarà deciso, nella quale i media diventano omologati, anche quei media che dovrebbero essere di ribellione e di contrasto, e nella quale la televisione è uno strumento di comunicazione, ma non di informazione. È lì che lui vedeva la differenza, e attraverso la comunicazione di controllo. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere e parire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. L'intuizione di Pasolini era: lo strumento in sé sta disattivando la partecipazione alla responsabilità individuale. al fatto che io, te, lui, gli altri sono cittadini chiamati a partecipare, chiamati a decidere, chiamati a giudicare. Questo strumento delega, questo strumento fa diventare pubblico, fa diventare audience. Questa era la sua anticipazione. E forse allora quelle parole di Pasolini suonano davvero come una profezia. Anche questo rinnova il dolore e lo sgomento di quanti lo hanno amato e apprezzato come uomo, come artista e come poeta. Dolore e sgomento che possiamo ascoltare nelle parole di Alberto Moravia. Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo. Ne nascono tre o quattro soltanto dentro un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. What did I see? Negli ultimi anni non si era per niente, come dire, addolcito, non aveva per nulla abbandonato l'aggressività, anzi le ultime opere che abbiamo visto, conosciuto, postume o negli ultimi anni della sua vita testimoniavano forse addirittura un'asprezza maggiore. Io mi sono sempre domandato se questo dipendesse dal fatto che ho già, dal fatto che lui sentisse sempre il bisogno di una provocazione positiva sempre più forte, o anche da una disillusione, perché vedeva la fatica con cui le cose a cui era attaccato camminavano, o la perdita lungo la strada di cose che gli sembravano importanti. E poiché la società italiana non è migliorata, Pasolini sarebbe rimasto sempre un testimone scomodo e aggressivo. Ma qual è la novità? È quello che penso io di me, o quello che pensa la gente, o quello che pensa quello là lì dentro? Cosa senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa senti, eh? Sì, sì, si sente qualcosa che c'è. Quella è la verità. Ma non bisogna nominarla, perché appena la nomini, non c'è più. Mix 24. La storia. Onorevole Veltroni, lei, dopo le dichiarazioni di Dell'Utri sul possesso di un capitolo inedito del romanzo Petrolio di Pasolini, ha fatto un'interrogazione parlamentare, ma perché? Beh, per capire la stranezza di questo annuncio, perché la nipote di Pierpaolo, Graziella Chiarcossi, e suo marito Vincenzo Cerami, che oggi non c'è più, non risultava che questo capitolo fosse stato scritto, e dunque Dell'Utri aveva annunciato di aver visto un testo importante, aveva annunciato che questo testo conteneva verità e rivelazioni sulla morte di De Mauro, sulla morte di Mattei e che potevano spiegare la morte dello stesso Pasolini, e improvvisamente questo testo era scomparso, volatilizzato, e il ministro della cultura di allora, Bondi, venne in aula e disse che il senatore Dell'Utri gli aveva confermato di aver visto questo testo. Allora, o il testo era apocrifo oppure era apocrifa l'invenzione della visione del testo. Ma e quindi non se ne è saputo niente della verità o meno di questa cosa, dell'esistenza? No, so che ci sono state varie iniziative volte a cercare di appurare la verità, ma Dell'Utri ha sempre detto che questa persona gli ha fatto vedere questo testo, poi era sparita e quindi non se n'era più saputo nulla. Però ma lei ci crede? Lei ci crede a questa esistenza di rapporti fra queste morti eccellenti? Ma guardi, io non ho una teoria, diciamo, del complotto che arriva fin lì. Che Pasolini non è stato ucciso solo da Pelosi. Questo lo so, ne sono certo, e penso che ora l'indagine della magistratura potrà aiutarci a scoprire se questa percezione corrisponde alla verità. Ma di questo sono, diciamo, con gli strumenti di cui dispongo, assolutamente sicuro. E qualche strumento ce lo può dire anche noi, perché noi nel documentario abbiamo raccontato il giallo dell'omicidio. Lei ha conosciuto Pelosi, ecco, è dall'incontro con Pelosi che le è venuta questa certezza, oppure da ulteriori elementi? Ma no, guardi, da sempre, molti di noi non hanno mai creduto, conoscevamo Pierpaolo, sapevamo, diciamo, le sue abitudini di vita e anche, certo, al tempo stesso la sua prestanza fisica. L'idea che potesse essere stato ridotto in quel modo da un ragazzo di 17 anni in quelle circostanze, in quel luogo, senza che ci fossero altri motivi, appariva già allora incredibile. E poi la storia dell'omicidio di Pasolini è la storia di una quantità infinita di depistaggi, di stranezze, non so, gli avvocati che vengono indicati da un giornalista iscritto alla P2 che va dalla famiglia e chiede di prendere un avvocato invece che un altro. E a proposito di Pelosi stesso, nelle mille verità che ha raccontato, certo, però l'unica cosa sulla quale oggi, diciamo, secondo me è credibile è proprio nel fatto che lui dice di non essere stato da solo. L'impressione di Pelosi è di un uomo impaurito. Cioè, questo, che quindi non era solo, ma non dice con chi. Esatto, non dice con chi, se non facendo riferimento ad alcune persone che non ci sono più. Però alla mia domanda in occasione di un dibattito pubblico, se c'è ancora qualcuno che gli mette paura con la sua presenza, lui mi diede la mano, mi salutò come per dire, come capisce, non posso risponderle, certo, a questo. Certo. Ecco, ma qual è stata, al di là di questa tremenda morte misteriosa ancora, qual è stata la grandezza di Pasolini come intellettuale? La sua libertà. Pasolini era del tutto imprevedibile. Seguiva il filo di una sua coerenza, coerenza fatta anche di spezzettamenti, di deviazioni, ma una coerenza interiore, una coerenza morale, diciamo così, che lo ha portato a dire costantemente cose scomode. Certo. Quella che si ricorda come più scomoda è, certo, la lettera al movimento studentesco, esatto, dopo i fatti di Valle Giulia, ma poi costantemente ha detto cose che di volta in volta non sono piaciute a qualcuno, perché era veramente un uomo libero, con una profondità e una grandezza culturale che credo, diciamo, di cui si sente una grande mancanza. Certo, ma è, per finire, politica e cultura, perché lui poi era anche un uomo profondamente politico a modo suo, erano fuse nel modo auspicabile in lui per ogni intellettuale? Ma sì, perché lui guardava la realtà che gli interessava molto. Il suo ultimo lavoro, Petrolio, è evidentemente un lavoro sulla realtà, ma il suo ultimo film, Salò, è un racconto, diciamo, da un certo punto di vista persino anticipatore di processi che poi si sarebbero realizzati più avanti. Lui guardava la realtà ma senza gli occhiali dell'ideologia, e in quel tempo della storia era difficile, era una grande conquista particolare, una grande conquista. Aveva Giorgio Gaber sul piano musicale e pochi altri, diciamo. grazie Veltroni, grazie mille. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia, e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.